avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Avviandoci, come stiamo facendo, verso la fine di quest'anno terrificante e apprestandoci ad accogliere il nuovo anno, il 2012, che segnerà la fine del mondo, almeno ciò che afferma il sommo Giacobbo e la profezia Maya, mi sembrava doveroso, dato che questi sono giorni di stallo, giorni in cui ci si è appena ripresi dalla crapula natalizia e ci si appresta all'ultimo grande colpo al nostro colesterolo, che sarà il Capodanno. Passato questo Capodanno, in cui sembra che tutto si sia attenuato, alleviato, passa sotto una dolce nebbiolina fatta di fiumi alcolici, fatta di avanzi di sugo di cappone, fatta di fette di panettone che ormai non sa più sotto quale forma riproporre a tavola, beh, probabilmente si affronterà la realtà. Ma nel frattempo io cosa voglio fare? Io voglio finire l'anno in tranquillità, voglio finirlo in serenità, voglio finirlo senza che nessuno si senta da me privato di qualcosa che per lui era indispensabile. Quindi io vorrei pareggiare i miei conti emotivi con la parte più interessante del mio pubblico, che sono le signore. Questo lo dico non perché io sia, anche se molti mi rappresentano così e amo giocare con questa figura iperbolica, un maniaco compulsivo. A me piace che mi si pensi e rappresenti in una sorta di harem attraverso fumi di margarita, fumenti magico-misteriosofici, specchi, troni zebrati, vestaglie di seta. Il mio quotidiano è molto diverso, è fatto di buste della spesa, di ragazzi da prendere, riportare a scuola, di rubinetti che perdono acqua, di impianti elettrici che si fulminano quotidianamente, di lavoro, di passaggi, di autobus, di metropolitana, di mogli noiose, di figli rompiscatole, di amici insopportabili. Ecco, questa è la vita di tutti. Però, ancora una volta, culliamoci nell'esempio che oggi sia possibile, attraverso l'illusione radiofonica, gestire un harem di signore. Beh, le signore sono le fantastiche ascoltatrici che danno spessore alla nostra trasmissione. Questa mattina darò giustizia a quelle ascoltatrici che, diciamo, è un campione esemplificativo, perché ce ne sarebbero centinaia da accontentare, ma anche noi abbiamo i nostri limiti. Ne prenderemo un certo numero di quelle che hanno lasciato messaggi nella segreteria telefonica, scritto accurati post su Facebook, raggiunto attraverso le più improbabili, indecifrabili, indicibili, indecenti protesi emotive, volendo in qualche maniera partecipare alla trasmissione. Ma non c'è stato tempo, non c'è stato modo, non c'è stata maniera. Lo spietato Intonti non me l'ha messa nella lista delle persone che andranno in, che dovrebbero andare in onda. Quindi questa mattina cerco di recuperarne qualcuna. Le recupero secondo alcuni temi, temi che abbiamo trattato nella parte finale della nostra trasmissione, temi che riguardavano soprattutto o in parte precipua le signore. In particolare c'è un tema che molto mi divertì. Io lanciai questa trasmissione cambiando completamente la scaletta una mattina, dopo aver passato una piacevole serata con due amiche che erano venute a trovarmi e avevamo cenato assieme, e mi hanno raccontato della loro meraviglia, della scoperta dell'amore. Improvvisamente queste signore, sul far della cinquantina, avevano scoperto che è bello essere innamorati, è bello fare dei progetti per la vita con una persona. Sì, tutte abbastanza sposate e figliate, però nonostante questo avevano deciso di lasciare baracca e burattini per inseguire un sogno d'amore. Avevano trovato il loro tardivo principe brizzolato. Ognuna a modo suo amministrava e allucinava i sogni d'amore, e sembrava a me di parlare con delle compagne di classe ai tempi del ginnasio. Sentire ragazze che improvvisamente palpitavano quei cuoricini dentro quelle camicette, dentro quei cinti contenitivi, soltanto aspettando un sms del loro innamorato che segnalasse la sua presenza, che si facesse vivo. Mi chiama o non mi chiama, ma lo chiamo io, o è meglio aspettare che mi chiami lui? Beh, quel giorno decisi di parlare del fenomeno paradossale delle signore innamorate dell'amore, ma che vedono la loro ritorno di fiamma per l'amore come vedrebbero, non so, un'iniezione di botox nelle loro labbra o un piccolo ritocchino alle loro forme, una maniera per sentirsi giovani. Buongiorno, sono una sessantenne, innamoratissima, sms, fiori, appuntamenti estemporanei, viva l'amore a tutte le età. Questo messaggio trovato sulla segreteria telefonica ha fatto sì che io mi sentissi in dovere nei confronti di questa signora sessantenne innamorata di fargli esprimere la sua istanza. Sì, perché io ci ho scherzato, ci ho ironizzato, ho preso in giro questo fenomeno, ma forse dentro di me covava soltanto una profonda e radicale invidia. Questa riscoperta di un sentimento folle ci fa dimenticare il mondo, dimenticare la razionalità, dimenticare ciò che dovrebbe essere giusto, corretto e retto fare in nome dell'amore. E quindi ho oggi al telefono Patrizia, sessantenne innamorata. Patrizia, buongiorno. Buongiorno. Ecco, perché ha sentito questa profonda necessità di esprimere nella nostra segreteria telefonica il suo affiliamento alla setta delle signore innamorate? Perché è un invito a non perdere mai la speranza, perché anche quando nella vita tutto sembra che stia accadendo in un baratro, perché resti sola, perché hai scelto di restare sola o perché la vita ti fa restare sola, io ho avuto questa fortuna. Lei aveva scelto di rimanere sola, quindi ormai ci aveva messo un bel mattone sopra. No, io non l'ho scelto, io sono rimasta sola e diciamo nella mia libreria del cuore avevo messo sul ripiano un volume che non era il tempo di leggere da adolescente, però l'avevo messo lì con un segnalibro e sapevo che prima o poi sarebbe arrivato il momento di riaprirlo e di rileggerlo, e così è stato. Quindi non aveva abbandonato la speranza che l'amore l'avrebbe colta per strada con il suo raggio fulminante? Mai, mai, l'amore mi ha sempre seguito, da lontano, discretamente, e sbirciando attraverso gli impegni che la vita mi aveva portato ad assumere come un marito, come dei figli, ma l'amore, quel progetto di amore è sempre stato lì in un angolo del cuore, e quindi i casi della vita mi hanno portato... Ma forse, scusi, il fatto è proprio questo, è rimasto un progetto, quando qualcosa lo teniamo da parte e anteponiamo altre occupazioni, secondo noi più importanti, rimane allo stato progettuale, uno lo vive fino in fondo, non diventa cinico, perché chi esaurisce questo progetto nell'età dell'adolescenza, nell'età della somma vigoria, a un certo punto dice sì, il mondo è bella l'infatuazione, è bello l'incapricciamento, è bello l'attizzamento feroce, radicale per una persona sconosciuta, ma l'amore releghiamolo in tempi in cui ancora ci si possa illudere. Invece lei dice che si può illudere anche a 60 anni. Ma le dirò di più, non è un'illusione, è la certezza che abbiamo sempre le risorse per ricominciare ad amare e, come ha detto lei, aspettare i messaggi, aspettare i fiori, i piccoli litigi, le piccole riappacificazioni vissute con la consapevolezza di un'età matura e quindi prese come un regalo che la vita ci dà nuovamente, perché ci rimettiamo in gioco, capito? Torniamo ad andare dal parrucchiere non per coprire la ricrescita, ma per cambiare la nostra immagine, per prendere... Sì, ma quello si fa anche senza essere innamorati, anche se una persona ci piace e vogliamo goderne dell'intima voluttà, ci facciamo belli lo stesso. L'amore è un'altra cosa. L'amore però è quello di rivedersi, discussione, rimesso in gioco con un compagno che si era lasciato in una fase adolescenziale, quindi ci riaggancia. È una ripresina la sua, lei si è ripresa, non mi dice è una ripresona dopo 40 anni, eravamo fidanzati al liceo, ci siamo persi. E perché vi lasciaste allora? Perché non era il momento, perché io ero un adolescente, lui era poco più che un ragazzo, 15 anni io, 20 lui, non era il momento di una separazione anche geografica, un mio trasferimento, via, ci siamo persi, rassegnati. 15-20 è un rapporto un po' Cioè un ventenne non dovrebbe perdere tempo con una quindicenne, onestamente. Secondo... Ma parliamo dei tempi, parliamo di 40 anni fa, quando sì, un ventenne era un quindicenne di oggi. E una quindicenne andava in giro vestita come una signora di 40 anni, ecco. No, una quindicenne andava vestita come con una minigonna, come Barbarella. Ah, lei era una ragazzina yeie. Ah. Molto, molto yeie. Come molto passa yeie. Il tempo. Sì, infatti. E quindi allora che era il momento dell'amore libero, lei fu sdegnosa e si tenne da parte. Oggi che è passato un po' di tempo, e come l'ha ritrovato questo giovanotto? Questo giovanotto è tornato un po' calvo e con il capello bianco, l'ho ritrovato ad una cena di amici. A 65 anni anche lui. Lui ha 65 anni, ho 60. E abbiamo detto, ma c'è un discorso in sospeso tra di noi, lo vogliamo riprendere o giriamo pagina ancora? Evidentemente il discorso non era interrotto, cioè era interrotto ma non concluso, ed è stato bellissimo riprenderlo. La sa perché è stato bello? Perché lo ritengo un privilegio? Perché lui era il gancio con la mia adolescenza, col mio essere una ragazza piena di aspettative. Lui era la mia proiezione di quello che ero, e che tutti noi viviamo il nostro primo amore con una sorta, come ha detto lei, un po' di rammarico, perché... Ma io no, guardi, io ho un'esperienza infelicissima. Il primo amore era un pochino più grande di me e dovetti fingere di essere all'altezza della situazione, lei dovette fingere ingenuità che in realtà non aveva, era un gioco degli equivoci terrificante. Lei si fingeva bambinella e io mi fingevo uomo consumato, in realtà mentivamo entrambi, lei era molto navigata e ero molto ingenuo. Comunque va bene lo stesso, non c'è problema. Sì, certo, ognuno poi riposiziona il primo amore secondo quello che... Vabbè, se l'ha riposizionato nella maniera giusta, dopo tanti anni, sono felice per lei, mi fa molto piacere. Oddio, mi sembra un pochino, però non voglio entrare nella sua sfera personale, in questi 40 anni che ha diviso comunque la vita con altre persone, l'affettività con altre persone, se c'era questo grosso discorso di sospensione con una persona, evidentemente era molto condizionato, in realtà era considerato tutto un ripiego rispetto a questo amore così forte, imperituro e splendido, che 40 anni può rimanere in ammollo per ritornare poi in superficie come il baccalà secco quando si mette in acqua e poi ritorna come fresco. Ecco, comunque, se questa è la cosa che la rende felice e le dà spessore e importanza nella vita, non posso che abbassare, ahimè, il mio capino sdegnoso e dire: l'amore ha vinto ancora una volta. Io volevo dire, riguardo la trasmissione di stamattina per i lucchetti, che se la gente non sa dove andare a un fermo, un punto fermo al proprio amore, basta che se lo giuri in eterno all'interno della coppia. Certo, un lucchetto che cambierà la storia amorosa. Povero illuso, come se un giuramento potesse avere la forza di vincolo, o come non può averla un lucchetto, non può averla un giuramento sulle cose più sacre, non può averlo un giuramento sui testi più sacri, non può averlo un giuramento fatto sull'orlo di un precipizio. Nulla da sicurezza, nulla da suggello eterno, nulla rappresenta la soluzione che tranquillizza un amore che vive proprio per la sua irrequietezza. Monica, buongiorno. Ah, salve, bellissima questa esperienza. Quale, no? Quale esperienza? Quella di Patrizia. Viverla è stata sentirla è stata veramente una... Ne è rimasta emozionata, vero? Sì, molto emozionata, anche se non sono una coetanea, però comunque riesco comunque a percepire questa illusione di amare, l'amore assoluto, senza confini. Ha detto le parole giuste, percepisce l'illusione di amare. La fantastica formula dell'amore maturo è quello che uno sa benissimo che è un'illusione, ma se ne prende la quotidiana piacevolezza è come... se uno si prende gli ultimi raggi di un pallido sole d'inverno e dice: beh, finché c'è mi riscaldo un po', poi pazienza, verranno le nuvole, ci metteremo il cappotto. Ma io dirò qualcosa di più, perché penso che comunque a una certa età si vive veramente l'amore assoluto, quello senza confini di tempo. Ma a una certa età secondo me uno dovrebbe diventare un po' più scafato e prendere il bello dalle persone senza dover trovare sempre questa scusa dell'amore, non lo so, comunque. Ma l'amore serve per fare alcune cose che magari senza non si fanno, no? Me ne esprima una che non si fa senza amore. Una che si fa senza amore? Sì, sì, lei dice l'amore permette di fare alcune cose che altrimenti non si farebbero. Mi dica una. Per stare con un uomo, insomma. Ah, solo l'amore fa stare... È innaturale, insomma, nasciamo da soli e moriamo da soli, quindi la coppia non è altro che comunque una neurosi, non sono io certo a dirlo. Ma una persona mica ci sta solo per amore, ci sta anche perché gli piace questa persona, perché ci si trova bene, perché ha piacere di stare con questa persona, riempie il proprio tempo... Se tutte queste cose che danno gioia messe insieme le definiamo amore, siamo d'accordo. Ma se definiamo amore qualcosa di indefinibile, indecifrabile, inenarrabile, che fa parte dell'infatuazione che la natura ci ha dato attraverso alcuni messaggi ormonali e neurotrasmettitori finalizzati al nostro accoppiamento, finalizzato al proseguire della nostra specie, non possiamo dire che questo amore possa essere qualcosa che ci illumina oltre l'età feconda. Diciamo la verità, ci si innamora, ci si rinfatua di alcune persone perché o ci si è soli o perché si ha piacere di stare con queste persone, ma l'amore che fa palpitare, l'amore che fa impazzire, l'amore che viene descritto da sì tanta letteratura e poesia, trovo che sia qualcosa che l'età matura dovrebbe portare a considerare come una fanciullesca debolezza, o sbaglio? No, è una forza, quello comunque di ancor credere che esiste una forza che ti distoglie dall'individualismo, che ti porta comunque ad essere soprattutto in un'età matura, no? Quindi comunque a pensare ai nipoti, ai figli, quindi non solo più al marito, ai figli, ma anche ai nipoti, ma anche comunque alla tua vita, no? Quindi alla cura, è una, assolutamente la forza di una donna che attualmente credo sia una cosa anche molto più semplice a trovare. Beh, lei non teorizzi, Monica, dica il suo punto di vista. Lei si è dichiarata donna innamorata dell'amore, di quella categoria di signore con esperienza di vita che ancora tornano fanciulline e parlano di amore. A me, guardi, già sta venendo un po' di fastidio epidermico a sentir parlare in termini così astratti. È tristissimo pensare che l'amore è la consolazione di quando siamo anziani. Sì, sarà bello, ma è un'altra cosa, diciamo la verità, è come vestir, come Baby Jane che si mette i vestiti di quando era ragazzina, o sbaglio? Dica come la pensa lei. La coscienza invece di amare è quella che hai solamente a 50 anni dopo che hai fatto tante esperienze, e quindi la consapevolezza di amare quella persona, perché effettivamente in quella persona hai trovato, non credo più il sesso spietato, ma sicuramente degli interessi da portare avanti, cosa che magari... Vede però, sì, ma stiamo definendo tutta una serie di categorie diverse. Sono d'accordo, è una cosa bellissima averci una persona accanto e sentire di aver desiderio di averla accanto, ma l'amore, come lo state raccontando voi, è qualcos'altro. Voi state parlando delle vampe di infatuazione folle che prendono da ragazzini, è un'altra cosa. Sì, è bellissimo, ma l'amore non può essere una gamma soggettiva di definizioni, o è qualcosa di assoluto, e spiegatemi cosa sia. Io ho detto cos'è per me, è qualcosa di folle che prende l'età della follia. L'età della follia corrisponde all'età della necessità di accoppiamento, perché abbiamo un messaggio che la natura ci impone dentro, è un po' come l'estro per gli animali, per le piante, vicendo, noi lo chiamiamo amore. Il resto è una gradevolissima, importantissima caratteristica dell'essere umano che ci distingue appunto dalle bestie. Ma trovo assimilabile al lifting, alla plastica facciale, al gonfiamento mammellario, parlare di amore a una certa età, ma forse probabilmente io sono soltanto una persona detestabile. Sei single e vuoi continuare ad esserlo, ma è l'ormone impazzito che urla all'arrembaggio, e allo stesso tempo stai cercando un modo carino e diretto per dire: sai, ho voglia di... ma senza impegno. Ma ce l'ho io il rimedio per lei. La tromba micina, il cui principio attivo è la tromba amica. Questo è un dispositivo medico da usare senza cautela. La tromba amica non deve essere esclusiva, è compatibile con altri due o tre farmaci similari. E se poi riesci a prenderli tutti insieme contemporaneamente, bella per te. Per dimostrarvi che il mio non è un discorso finalizzato a una sorta di pubblicità alla libera espressione dei desideri corporei, vi ricordo che ho fatto, in una fase successiva, una puntata dedicata a questa ipotetica, simbolica figura abbastanza logora nell'immaginario comune del trombamico. Per trombamico si intende un amico simpaticamente legato a noi, amico, amica, dipende dal punto di vista, da vario tempo, con il quale a un certo punto, per mutuo patto, ci si concede anche carnalmente. Perché? Perché si è soli, perché si ha voglia di farlo, perché non è impegnativo. E il trombamico sembra che sia, almeno in una, un luogo comune che io ho fortemente avversato, la soluzione a tutti i problemi. Hai trovato un trombamico, sei a posto, così non hai problemi, non hai implicazioni. Io osai portare a difesa della mia posizione il fatto che se uno prova desiderio continuo di stare assieme a un trombamico e quindi vuole passare tempo con lui, vuole vivere con lui, ha desiderio anche fisico di farlo ripetutamente con lui, anche se semplicemente un atto fisico, significa che comincia a essere preso, che è una relazione, non è più un trombamico, è qualcosa che assomiglia, non so, definiamolo con figure antiche, un fidanzato, un amante, una persona con cui abbiamo una storia speciale. Il trombamico, ma che modo cinico di parlare, ma che roba, mamma mia, io non so, l'amore, il coinvolgimento amoroso non esiste, ma che roba, e sarà perché sono nata nella prima metà del 1941, ti è? Tromba amico, ma che modo di parlare è? Ma queste donne come sono? Ecco, naturalmente la stessa parola tromba amico, questo è l'altro versante, l'altro côté del pubblico che mi ascolta, ha suscitato immediatamente il rabbrividimento di questa brava donna, questa stupenda signora, questa impeccabile massaia, madre e specchiato esempio di moglie, dice ma che cosa orribile, non ne possiamo nemmeno sentir parlare. Ma in tutte le epoche è esistito qualcosa di simile, vuoi chiamarlo amico di famiglia? Vuoi chiamarlo avvocato di famiglia, vuoi chiamarlo medico pediatra dei figli, vuoi chiamarlo portiere, vuoi chiamarlo amministratore di condominio, vuoi chiamarlo amministratore dei beni pubblici, vuoi chiamarlo parroco, vuoi chiamarlo confidente, vuoi chiamarlo come vuoi. È sempre esistita una valvola di sfogo per la impossibilità di trovare temperie e moderazione della passione femminile. Oggi lo si chiama trombamico, ma io sono convinto, e lo dico probabilmente perché sono stato frainteso da questa signora, che sia un termine che non rappresenta nulla, è un'ipotesi, è un assoluto oggetto dell'impalpabile desiderio. Il trombamico non esiste. Il trombamico potrebbe essere tutto al più un rapporto occasionale, una persona che in un momento di cedimento, di ubriachezza, ha condiviso un nostro attimo di desolazione riempendolo con una presenza fisica. Ma se il rapporto dura nel tempo, non si tratta di amico, ma si tratta di qualcos'altro. Riprenderemo il problema con le ascoltatrici interessate a questo argomento tra un istante. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Questa è una cosa fantastica perché non ci sono vincoli, non ci sono gelosie, non c'è da rendere conto a nessuno. Ti comporti così come sei, te stesso, se ti va, ti va, se non ti va, lasci perdere, è il tuo amico. Questo nasceva anche da un pensarla in maniera comune riguardo al fatto che io sapevo che non mi sarei mai potuta innamorare di lui perché era una persona con cui mi trovavo molto bene, però sapevo che non aveva un carattere con cui io potevo convivere più di quelle tre ore, e lui per ragioni diverse, per situazioni diciamo esterne al contorno, diciamo, non era disposto ad andare oltre con me, non voleva assolutamente. Quindi questo era un po' il tacito accordo, nel senso che non ci siamo mai chiesti o ci sono mai venuti dubbi, proseguiamo o ci creiamo una storia più seria, assolutamente no. Io sono dell'idea, ma ho pallidissimi e lontani ricordi, quindi potrei anche sbagliarmi, che due se lo fanno e gli dà gusto farlo, poi gli viene voglia di rifarlo. Se non gli è venuto più voglia a entrambi, non credo che possa esistere un patto condiviso così ferro e indissolubile che pur combattendo il reciproco desiderio ce ne lo facciamo più. Evidentemente, in un momento di smarrimento, come dico io, in un momento di vuoto, in un momento di neghittosità, si sono lasciati andare a questa cosa, vergognandosi dentro di sé ognuno, perché dicendo ma quando mai, mai più, sono quelle cose che uno poi vorrebbe cancellarsi dalla mente, come riguardare poi l'amico con cui poi ci si è lasciati andare, ma senza nemmeno il piacere di avere nuovamente desiderio di farlo. È stato un momento di debolezza, è un po' come quegli atti innominabili autodistruttivi che da ragazzi ci davano sì tanta soddisfazione, ma poi per quello che ci dicevano, per quello che ci raccontavano, per i pozzi neri e infernali che venivano descritti come punizione per quell'atto, ne provavamo una profonda vergogna. Non so se questo è l'argomento di Dania. Dania, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Ciao. Una premessa, Dania, io non, spesso non la riconosco, ma è una di quelle compulsive ascoltatrici che cercano di infilarsi il più possibile dentro la trasmissione. Oggi l'abbiamo cercato noi perché sul trombamico mi sembra tu avessi avuto qualcosa da dire, ma allora non potresti partecipare, lasciando un grande vuoto nel nostro immaginario, quindi sentiamo come la pensi te. Allora, secondo me il trombamico è l'amico di una sera di letto. Due volte siamo già a borderline, ci diventa troppa implicazione e questo potrebbe portare ad essere gelosa se magari la volta successiva il trombamico è di un'altra. Quindi mi dai ragione, alla fine... Questa... Sì, sì. Allora è una figura su cui la contemporaneità si è lungamente crogiolata, hanno scritto pagine e pagine su rotocalchi femminili, ci sono tanti siti, non esiste il trombamico, è l'amico con cui fai una scivolata una sera e ti trovi da sola, ma poi guardi, sei la prima a dire mai più nella vita. Ma infatti, secondo me con il trombamico ci deve essere solo la scopata, la pazzia di una sera, poi nessun obbligo, nessun problema, l'unico neo è la qualità della prestazione. Sì, ma guarda, però, scusa Dania, dammi ragione Dania. Se la prestazione è stata di alta qualità, tu saresti la prima a trovare come un cane davanti alla ciotola il giorno dopo fuori del suo portone. Evidentemente, nella norma, l'amico, se è amico, se è stato amico finora, è giusto che rimanga amico. Una sera uno si lascia andare perché è alticcio, perché è solo, perché deve fare uno sfregio all'esistenza, ma se ne guarda bene il giorno dopo. Se il giorno dopo viene desiderio di rincontrare quella persona, è l'inizio di una storia. Sì, sì, infatti, altrimenti si parla poi di amante, di altre figure, non di trombamico. E stavo dicendo che la qualità della prestazione, secondo me, ci perde una volta e via. Cioè, non arrivi a grandi cose, non conosci la persona e la scopata è a livelli base, senza sfaccettatura, una sveltina dettata dall'impulso del momento. Vabbè, cioè, uno mica per sempre deve uscire satollo e inebriato, è sempre meglio che starsene a casa a guardare la televisione, dai. Sì, ok. Va bene. Okay. Quindi diciamo che il trombamico è un'allucinazione contemporanea per timore, paura, pudore di definire le storie con i loro nomi tradizionali. L'amante, il fidanzato, la persona importante, il marito di un'altra, la moglie dell'amico e via dicendo. Quando un rapporto in sé ha un desiderio di ripetizione, di reiterazione dell'atto, secondo me è un rapporto. Quando è una notte via, una botte via, come diceva la nostra illuminata ascoltatrice Dania, evidentemente è semplicemente un momento di passaggio, un mutuo soccorso. È come mi metto le mani in tasca, non ho il portafoglio, dico a un'amica mi presti 10 euro, ti presta 10 euro, ma te ne guardi bene il giorno dopo di andargliene a chiedere altri 50, perché è finita così, non lo farei mai più. Grazie Dania, andiamo avanti con Annabella. Annabella è un'altra... Annabella o Isabella, scusami? Annabella, come il giornale. Annabella, buongiorno. Anche tu avevi qualcosa da dire sul trombamico? Sì, io... Dunque, a parte il fatto che è un concetto talmente contemporaneo che è diffuso anche come propria parola in altre nazioni, mi viene in mente anche in Germania esistono i cosiddetti Sittfreunde, che sono esattamente i trombamici. Mi sembra però una parola per chi ha paura di qualche relazione un po' più seria. Sono d'accordo anch'io, è una grossa ipocrisia. È superficie, è qualcosa che non approfondisce, che non va in profondità, è superficiale. Si diventa presto moralisti, diciamo. No, ma è così. Secondo me nasconde in sé la parola trombamico, nella sua apparente spregiudicatezza, un terribile bigotto moralismo. Perché se l'amico è tale, se tu hai un amico e l'hai sempre considerato come amico, vuol dire che non t'attizzerebbe nemmeno se tu trovassi biotto e nudo addosso. Non è un amico, fine. Sono due concetti inconciliabili. Esattamente. L'amicizia e la, diciamo, una relazione sessuale. Può succedere una sera, ecco, però poi, ecco, ci si vergogna. Io sì, avrei brava, esattamente. Ma timore. Potrebbe succederti timore, con un passante, no. Con chiunque. Infatti io coglierei il concetto di tromboscente più che trombamico. Bravissima. Una tromboscienza, una tromboconoscenza potrebbe durare nel tempo, ma senza approfondire l'amicizia. L'amicizia esclude, secondo me, una relazione sessuale duratura e ripetitiva. Quindi, diciamo, la tromboscienza sarebbe, diciamo, io... Una tromboconoscenza, sì. non diciamo non approfondita, ripetuta, però... Ecco, ma non sei d'accordo con me che la reiterazione ammette comunque un legame? Ammette un legame, può essere anche un legame di tipo carnale e basta. Eh sì, ma legame di tipo carnale molte volte fa scattare altri meccanismi, che il desiderio di possesso, il desiderio di esclusività. Non ci prendiamo in giro, su, una persona che ci stai bene dopo un po' la vorresti per te, non lo so. Ma infatti, secondo me la tromba amicizia è un concetto non soltanto ipocrita e fasullo, come è già stato detto, ma anche unilaterale. A uso e consumo di uno soltanto, dei due. Ecco, se uno veramente uno ci lascia le penne. Esattamente, se uno ha la fortuna di trovare una persona che ci sta bene, che gli piace tutto, che apre l'armadietto e la trova a sua disposizione, sempre pronta e lì ferma, probabilmente sì, è un utility che tutti vorrebbero, ma non c'è reciprocità, hai ragione. Non c'è reciprocità, uno dei due investe di più. Di solito, adesso cado nella banalità più totale, però è la donna quella che di solito investe di più. Dici questo per esperienza personale, naturalmente. Per esperienza personale no, però ho parlato diverse volte con amiche e amici di questa cosa e stranamente le donne davano ragione a me. Ma guarda, io sono uomo e anch'io do ragione a te, t'assicuro. Sì, è vero. Infatti io volevo suffragare proprio la sua tesi. Direi, secondo me, sono due concetti assolutamente inconciliabili, amicizia e relazione sessuale duratura. Addirittura, io vado oltre, non può neanche esistere, a mio avviso, una vera amicizia tra uomo e donna. E qui la vedo proprio... Ma forse, una vera amicizia con grande limitatezza. Un uomo e una donna, dopo che hanno avuto una storia, dopo tanti anni, si rincontrano, come hanno esaurito quella cosa lì, possono anche essere amici. Sì, ma infatti dopo aver eliminato l'aspetto sessuale, allora sì che può essere. Ma anche l'aspetto di desiderio di possesso, essere tutti e due completamente scaricati del fatto che possa avere, provare ancora esclusivo desiderio per quella persona, può essere. Sì, io parto sempre dall'assunto che a mio avviso è la pulsione sessuale, il desiderio erotico della persona, o espresso oppure latente, che regola la maggior parte delle relazioni tra uomo e donna. In assoluto è vero, in assoluto è vero. E di conseguenza, se si elimina quell'aspetto lì, allora si passa su un piano più paritario, diciamo così, più puro, più vero, ecco. Sì, ma siccome sublimarlo è molto difficile, di solito conviene esaurirlo alla svelta e poi vedere se continua l'amicizia, bene, se no pazienza, non ci faremo per questo un dramma e non ci taglieremo le vene. Talmente grassa che se si mette a giocare con l'Ula Hop, la gente fa: guarda come si vede bene stasera Saturno. Pensate che adesso ha dovuto fare una dieta, è triste. Il dietologo l'ha messa a dieta, non può mangiare niente, però ha buttato giù 70 kg. A piatto il dietologo l'ha buttato dalla finestra. Tatiana è l'amica di quella grassa, talmente grassa, che quando va a scuola è amica del banco di tutti. Oh, bravo! Altro tema controverso che mi ha procurato gioie, ma allo stesso tempo anche numerose prese di posizione. Quando parlammo una volta di una nostra ascoltatrice, amica, Barbara Dardanelli, che lanciò un concorso fotografico per donne grasse. Lei, piacevole ragazza, ma notevolmente sovrappeso rispetto agli standard attuali, sarebbe perfettamente in linea in altra epoca e in altra cultura, in altra mentalità, ha deciso: ma perché dobbiamo nasconderci, perché dobbiamo sentirci come persone differenti, perché dobbiamo appartenere a una sorta di stirpe di gigantesse che devono stare nascoste, spogliamoci. E ha cominciato con grande coraggio a farsi fare foto di lei completamente nuda, con il suo enorme mappamondico sederone tatuato, chiamando poi altre amiche a raccolta, insomma ha fatto questo catalogo delle, questo calendario delle grasse che sta spopolando in rete, è diventato un oggetto di culto. Abbiamo cominciato a interrogarci sul fatto di quanto l'abbondanza fisica, al di là del modello estetico attuale, possa avere un valore nella nostra epoca. Beh, sono venute fuori pareri di grande contrasto. C'è chi subito mi ha messo davanti come una sorta di parafilia il desiderio smodato di alcuni uomini per le donne sovrappeso. Esiste tutta una branca specializzata della capillare suddivisione delle inclinazioni sessuali che dedica appunto alle persone molto sovrappeso tutta una categoria. Sono donne enormi, gigantesche, trabordanti, con omettini piccoli coi piccoli, e nel contrasto probabilmente si scatena la follia e il piacere. Ma non è questo. Oggi, in una società in cui la magrezza sembra l'unico valore reale e concreto, in cui le donne vedono il loro peso fisico come il più grande limite al fascino, all'accettabilità, in cui sono costrette a una drammatica dieta per essere presentabili, qual è il ruolo della donna grassa? Beh, tra un istante, dopo le informazioni del traffico, vedremo come l'hanno affrontato le nostre ascoltatrici. C'est connu quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Cos'è che vuoi? Una nazionale. La posso aiutare, signorina? Ma sta buono che non gliela fai. Ma come non ce la faccio? Io posso alzare anche 80 kg. Una volta ho preso in braccio anche il mio babbo. Questo è da ridere. Ma perché no? Lei quanto pesa? Ma non lo so. Vuol vedere che alza anche lei? Ah, sì? Vediamo. Vi ripropongo, vi ripropose allora una delle scene maggiormente legate al nostro immaginario, quando pensiamo a una donna piacevolmente sovrappeso come oggetto sconsiderato di profondo e insopprimibile stimolo erotico. Il ragazzino che prende in braccio la tabaccaia sembra quasi affondare dentro i suoi seni enormi, ma al momento del dunque, quando la tabaccaia poi è quasi disponibile all'intima abbondante d'azione, il ragazzino si prende un coccolone terribile, la febbre, lo mettono a letto, si ammala. Era troppo per lui questa emozione. Abbiamo una ascoltatrice, Giulia Guidi, che è anche una giornalista che spesso ha anche contribuito a alcune nostre trasmissioni dandoci fugaci e fantastici spunti di discussione, che vuole parlare delle grasse. Giulia, buongiorno. Buongiorno. Tu sei grassa? Io non ti ho mai visto. Sei grassa? No, io non sono grassa, io viaggio fra la 42 e la 44 a seconda delle stagioni. Magrolina, dai. Tu, insomma, normo peso. Ecco, cosa dici? Politicamente attive hanno rappresentato un momento felice dell'anno che ci stiamo lasciando alle spalle, almeno nel nostro microcosmo. Tu sei dell'idea che in realtà la grassitudine ostentata sia altrettanto prova di un narcisismo insopprimibile come la secchezza cadaverica dell'anoressica? Domando io, non so. Se assolutamente sì, assolutamente sì. Infatti chiamavo per fare un appuntino alla trasmissione dell'altra volta, perché con le varie citazioni che erano state fatte, tipo Faccione, tipo appunto la tabaccaia di Fellini, si era dato questo quadro un po' idilliaco e, come tu stesso dicevi prima, insomma, questa piacevolezza sessuale della grassona. Quando invece io, quando penso alla grassa, il primo esempio che mi viene in mente è la Kathy Bates di Misery non deve morire, capito? Cioè, quella non coglieva tanto il fatto che fosse grassa quanto fosse orribile nella sua abiezione, nella sua maniacalità, nella sua ossessione. Non era tanto che era bella forzuta, perché alla fine, quando gli vuole spaccare le ginocchia martellate, è un po' difficile. Anche quando lui gli spacca la testa con la macchina per scrivere, tanto si rialza in un sussulto. Quindi era un osso duro a morire, secondo me. E la maestra della grande abbuffata, Andrea Ferreol, quella come me la giudichi? Beh, ai suoi tempi qualche pensierino ce lo feci, qualche diottria ce la lasciai, ero un ragazzo. Dopodiché ho recuperato anche Fran Fullenwider di Melodrammone, film di Maurizio Costanzo, altrettanto malvagia e cinica. E poi c'è l'esempio di un film terribile che è Mia sorella, di Catherine Breillat, con Annie Rebaud, che fa la parte della sorella grassa, quella brutta, che assiste allo stupro della sorella e dopo viene a sua volta stuprata. Ascolta, tu, insomma, con questa tua galleria degli orrori vuol dire che le grasse sono cattive? Anche, cioè, no, quando si dipinge il disabile sempre come buono e sfigato, no? Cioè, quando in realtà anche la grassa ha tutta una sua dimensione di crudeltà e di terrore che è stata esplorata anche dalla letteratura, guarda, e dal cinema. E questo è giusto, perché sennò sarebbe il politicamente corretto, nasconderebbe ancora una più crudele capacità di emarginazione. Ogni categoria, sia essa svantaggiata, sia essa diversificata rispetto ai modelli normali, è giusto che abbia tutta la sua gamma di possibilità di espressione, dalla peggiore abiezione alla più sublime elevazione. Ma con questo, guarda che le grassone che animavano la nostra trasmissione non dicevano di essere migliori, dicevano con noi è più bello farlo, semplicemente questo. Era su un altro piano che portavano la provocazione, diciamo sì siamo grasse, ma chi non va con le grasse non sa cosa si perda. Era molto più carnale, non dicevano di essere delle dee o delle sante della virtù, dicevano semplicemente che provare per credere anche con le grasse, anzi soprattutto con le grasse, l'uomo aveva una vastissima e sublime possibilità di avere l'estensione massima dei propri sensi. Io ne avevo ricevuti tanti, ho pensato di riciclarli facendo una tombola con regali nascosti, e chi faceva l'ambo, il terno o chi che sia, si vinceva un regalo che probabilmente aveva regalato lui stesso. Che dire dei maglioni della suocera? Ogni anno lo stesso maglione a scacchi, quadri. E un ultimo residuo doveroso atto di giustizia proprio per passare un capodanno tranquillo. Sono rimasti ancora alcune persone con il desiderio del libro infame. Ricordate, lanciammo una crociata, descrivetevi i regali più infami che avete fatto o ricevuto e in cambio avrete un libro infame. Voglio ancora regalare due libri infami a due ascoltatrici. Eleonora, buongiorno. Buongiorno. Io chiamavo per raccontare quando 4 anni fa, alla mattina di Natale, ho ricevuto un regalo un pochino particolare da mio padre. Lui mi faceva sempre regali bellissimi, quindi anche quella mattina avevo insomma delle belle aspettative da parte sua. Ero con i miei genitori, mio fratello, e stavo proprio per aprire il suo regalo. Era una scatolina pasta, lo apro e mi trovo dentro una calcolatrice di quelle da ragionieri. Avete presente quelle che hanno anche, sì, il rotolo di carta? Ok, esattamente. Quindi ti offriva un futuro da cassiera, stupendo. Nulla di male. No, peggio, perché lui stavo facendo l'esame di ragioneria quell'anno in università e non riuscivo proprio a passarlo. E quindi lui pensava di farmi un regalo gradito, a regalarmi questa calcolatrice per capire attività e passività, ma è stato tipo il regalo più brutto. Come regalare una zappa a un contadino, è la stessa cosa, o regalare una mazza a uno spaccapietre, gli si ricorda esatto. Quello che è la doverosa necessità della propria professione. Guarda, ho un libro che mi sembra perfetto per te, è bello perché c'è un vecchio sulla copertina, anzi probabilmente una vecchia India, Eterna Giovinezza di Riccardo Kohler, è un libro nottetempo, non so cosa sia, ma mi sembra, siccome è intonso, è nuovo, non l'ho nemmeno aperto e ha la fortuna che non c'è nemmeno la dedica dell'autore, tale quale te lo posso regalare, ti faccio una bella dedica, tu nel frattempo hai dato quell'esame? Sì, ormai. Ormai sarai un dottore commercialista, avrai tantissimi clienti, passerai un ottimo 2012 che ce ne sarà di lavoro per voi, immagino, quindi i migliori auguri. Grazie mille. E andiamo avanti con la seconda ed ultima ascoltatrice desiderosa del libro infame, Clara. Buongiorno Nicoletti. Buongiorno Clara. Allora, qual era, diciamo, il regalo che volevi esprimere per avere in cambio il libro che ti darò e a cui tra le mani non vedo l'ora di dedicartelo? Allora, io ho ricevuto un regalo terrificante anni fa quando mi sono sposata da una coppia di amici che mi hanno regalato delle tazzine da caffè che si infilavano in una cosa rotonda di ottone, in una base rotonda di ottone alta 2 centimetri, fra l'altro l'ottone è anche macchiato. Sì, diventa verde e macchia tutto naturalmente. Ecco, riciclatissime, e la cosa ancora più terribile è che queste tazzine erano inserite in questa scatola in apposite forme dove si inserivano e intorno c'era tutta una stoffa di raso, ma quei rasi finti proprio da confezione di una volta, tutta in movimento ondulante. Guarda, ne ho visto una simile in un negozio di cinesi proprio qui accanto alla radio. È un articoletto che piace, funziona, è abbastanza velenoso nelle sue componenti tossiche, quindi secondo me è stato un attentato alla tua salute e a quella della tua famiglia. Beh, senti, io ho un libro molto filosofico, Pratica dell'immaginazione attiva, dialogare con l'inconscio e vivere meglio, di Marta Tibaldi. Ti darà senz'altro dei motivi di elevazione dalle schifosissime tazzine con il loro reggi tazzina in ottone velenoso. Melog 2.0. Parti dans tourbillon la vie, on a continué à tourner tout. tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.